Italia in controluce. Siamo dunque al pomeriggio di Radio 24. In studio vi parla Daniele Biacchesi per questa nuova puntata di Italia in controluce. E oggi vi raccontiamo una storia straordinaria che riguarda la città di San Benedetto del Tronto, nelle Marche. Una delle passeggiate più belle e più lunghe d'Italia, il Molo Sud, si è trasformata da molti anni in museo. Cioè i blocchi di cemento del porto si sono trasformati in sculture vive, come fosse una enorme galleria d'arte a cielo aperto. Sabato 16 giugno si riparte per la 16ª volta. Giorgia Mennuni ha intervistato il fondatore di Sculture Vive, Pier Nicola Cocchiaro. Quella che si terrà dal 16 al 23 giugno è la 16ª edizione di Scultura Viva. Anzitutto ci racconti com'è nata questa manifestazione, quali sono le sue origini? Le sue origini risalgono al 1996, quando una cittadina di San Benedetto ebbe l'idea di suggerire all'amministrazione comunale di poter realizzare qualche scultura, qualche opera d'arte lungo la passeggiata del Molo Sud di San Benedetto, che è una tra le più lunghe d'Italia. E allora la mia associazione, io sono il presidente dell'associazione Altra Arte che cura da 15 anni questa iniziativa, ebbe l'incarico da parte dell'assessore al turismo di allora di studiare un progetto di fattibilità. E quindi, una volta poi fatto il cosiddetto numero zero, le cose andarono così bene, la reazione della gente, dei cittadini, dei turisti che abitarono quell'anno sul Molo, ecco, nel vedere questi scultori che lavoravano direttamente la pietra e la possibilità per loro di poter assistere alla nascita e alla crescita e alla definizione finale di un'opera d'arte, diede a questa iniziativa un successo grandissimo e da lì poi piano piano si è evoluta, è andata avanti e oggi questo museo d'arte sul mare di San Benedetto ha una collezione di 120 pezzi di scultura che sono allineati in questa galleria lunghissima sul primo tratto del Molo Sud. Per quanto riguarda invece l'edizione di quest'anno, quali sono le novità? E abbiamo visto che principalmente sono dovute alla collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio. Quest'anno c'è stata la fortuna da parte mia di poter aver partecipato a un avviso pubblico della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, che ha voluto come soggetto del terzo settore rivolgersi ad altri soggetti del terzo settore, come associazioni soprattutto, per poter realizzare dei progetti artistici. Quindi io ho colto questa occasione per partecipare con un progetto che è biennale e che ha avuto la fortuna poi di essere ammesso a concorso. È uno dei 9 vincitori tra 110 progetti presentati alla Fondazione Carisap. Quest'anno ho potuto fare un'edizione speciale allargando il numero dei partecipanti e quindi passando dagli 8 usuali ai 10 partecipanti, e poi ho invitato 2 importanti scultori che terranno una mostra in parallelo presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto, e inoltre ho dato inizio quest'anno, proprio per l'occasione, a una nuova sezione nel simposio. Per la prima volta si apre alla pittura murale e quindi noi arricchiremo questo Museo d'Arte sul Mare di San Benedetto di 5 murales di 12 metri quadrati l'uno. L'offerta sarà migliorata e anche diversificata. E da dove nasce questa decisione di dare spazio a queste nuove voci della pittura murale? Nasce dal fatto che il nostro molo, il Molo di San Benedetto del Tronto, che è uno dei più lunghi d'Italia, è lungo circa 1400 metri, è composto da 3 tratti. Sull'ultimo tratto, quello finale verso la punta del Molo Sud, sono lì presenti da tantissimi anni degli orrendi blocchi di cemento che sono alti 2 metri, grandi sono 2 metri per 2 metri, e è una cosa orrenda, un muro bruttissimo che non solo toglie la vista del mare che sta al di là, ma che proprio per la loro caratteristica, sono di cemento grezzo, danno a tutto quell'ambiente un'immagine veramente brutta. E allora io ho pensato lo scorso anno di ideare questa nuova sezione chiamando degli street painter o wall painter per essere più precisi, di una certa fama, perché verranno poi dei wall painter internazionali, un francese, uno spagnolo, un italiano famoso, e quindi realizzeranno 5 murales grandi 12 metri quadrati l'uno, e quindi diciamo occupando 3 blocchi l'uno, su questo l'ultimo tratto, che diventerà senz'altro forse la parte più bella da un punto di vista scenografico di tutta quanta questa, di questo museo d'arte sul mare di San Benedetto. Tema della sezione scultura quest'anno sarà scultura donna, sì. Ecco, ci saranno artiste come Carol Turner, Simone De Lorenzo, ci può raccontare magari una di queste sculture? Ma per quanto riguarda le scultrici, sì, io quest'anno, siccome sinceramente in 15 anni di direzione artistica e di organizzazione di questo bellissimo simposio, ho visto che le artiste che hanno partecipato, le scultrici, avevano un carattere un po' più, devo dire, forte degli uomini, e però sono nel loro campo sono un po' sottovalutate. Allora quest'anno, visto che ho avuto una richiesta enorme di molte scultrici di diverse parti del mondo, ho voluto dedicare a loro una sezione, che è quella di scultura, chiamandola proprio scultura donna, e ho invitato una scultrice americana che è la Carol Turner, che è di Portland dell'Oregon, ci viene a regalare una sua opera in pietra che ricaverà dai questi blocchi di travertino che sono lungo la passeggiata del Molo Sud, e realizzerà una figura di donna stilizzata che viene catturata dalle onde, quasi diciamo a fare, ecco, è una metafora della vita, è una metafora dei problemi che assillano la vita quotidiana, e quindi delle persone che vengono poi afferrate da questi problemi durante la giornata, durante la propria vita, eccetera. Il simposio in sostanza è un incontro tra culture, tra arti di tutte le parti, e questo poi si sviluppa lungo il percorso della settimana in una maniera veramente bella. Loro diventano amici, integrano le loro esperienze e lasciano un segno indelebile che è la loro opera qui sul Molo di San Benedetto. Per quanto riguarda invece le iniziative del simposio che ruoteranno intorno proprio a questo museo a cielo aperto, sì. Cosa ci può dire? Sì, io come ogni anno organizzo la solita serata jazz, è dedicata a loro, alla loro bravura, alla loro disponibilità e alla loro pazienza, perché poi sono persone importanti, ma di una umiltà e di una disponibilità che è sconcertante. Un'altra iniziativa che ho potuto fare quest'anno, ho invitato un artista giapponese, uno scultore giapponese, Nobushige Akiyama, che è un esperto storico della carta washi, della carta tradizionale giapponese, antica giapponese, e lui è anche produttore di carta washi, e quindi verrà qui a San Benedetto per tutta la settimana del simposio e terrà alla Palazzina Azzurra una mostra sulle sue sculture in carta antica tradizionale giapponese, e ogni giorno darà dimostrazione delle varie fasi produttive di questa carta washi che poi lui adopera per le sue sculture. La cosa più grande e più bella, quella che mi dà l'entusiasmo come me lo dava nelle prime edizioni, è che con questa iniziativa, con Scultura Viva, io riesco a portare alla gente la possibilità, a dare alla gente la possibilità di vivere un'opera d'arte. La filosofia è quella di portare l'arte alla gente, dove è la gente, e non viceversa, non costringere la gente ad andare a cercare l'arte nelle gallerie. Quindi in questo senso possiamo dire che Scultura Viva è insomma un nuovo modo anche di fare cultura. Assolutamente sì, assolutamente sì. E per me è una cosa importantissima, per cui una fase importante di tutto questo processo che dura una settimana è il colloquio che si aprirà tra la gente che visiterà il cantiere, dove praticamente diventa un cantiere, il cantiere dove si fa arte, e il colloquio che loro avranno con i singoli artisti, perché io poi nel regolamento ho proprio scritto specificatamente che gli artisti invitati dovranno avere la pazienza e la disponibilità di colloquiare con chi va a vedere questo museo nel momento in cui loro realizzano le opere. In un'Italia che arranca, dove l'arte non affondi e tendenzialmente ha difficoltà ad andare avanti, lei invece è l'esempio che un'iniziativa positiva e promettente alla fine viene premiata. Vuole lanciare un messaggio a chi lotta ogni giorno per dare linfa vitale a un'iniziativa culturale come la sua? Insomma, in Italia si può e si deve dare spazio alla cultura. Si può e si deve assolutamente dare spazio alla cultura, perché io penso che molti dei danni danni che l'Italia ha avuto e del dramma che l'Italia sta vivendo dipende dal fatto che non abbiamo una grande cultura. Forse abbiamo una grande cultura del campionato di calcio, ma non abbiamo una cultura che invece può costituire una linfa, che può spingerci ad andare avanti soprattutto in questi momenti così brutti e così drammatici. Io penso che se si riuscisse a fornire un 10% di questa energia che si mette per queste cose, sarebbe veramente, secondo me, una strada che potrebbe portare a diverse soluzioni, non quella economica immagino, ma quella mentale sicuramente sì, che è la base per poi progredire. Abbiamo raccontato la storia di Scultura Viva a San Benedetto del Tronte, l'Italia in Controluce. Vi ricordo che questa, come tutte le puntate di questo programma, potete scaricare ed ascoltare su radio24.it, il nostro sito. Avete anche la possibilità di iscrivervi alla pagina di Italia in Controluce su Facebook, oppure aderire al gruppo sempre su Facebook, oppure iscriversi a Twitter. La nostra mail è come sempre controluce@radio24.it.